ragazzi, c'è nessuno? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Ora? Attenzione, canale 10, brecco. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione 10. Avanti, avanti, chi è? Buonasera, doppio rundo a questa parte, con chi abbiamo l'onore di parlare? Ciao Gianni, buonasera. Sempre a Porto Torres siamo qua. Ciao Mario, ciao, ben sentito, buonasera anche a te, dai. E allora Mario, che si dice, che si dice? Sì, che si dice, qua, dai, tutto ok, diciamo, via. Si continua imperterriti a vivere la giornata, niente di più, niente di meno, almeno. E tu lo sai, Porto Torres, una grande metropoli, offre di tutto e di più, sempre in casa, noi ci mai, no, gli aiuti. No, ma Porto Torres, diciamo che d'estate qualcosa si fa, dai, io ci scendo tante volte da Sassari quando fanno spettacoli, per dire, quest'anno ho visto diverse cose, capito, lì alla Torre Aragonese. Sì, no, vabbè, ma d'estate è un altro praticamente, un altro pianeta, è d'estate, ovviamente sai, più gente, più, come si dice, più vita, più allegria, ma l'inverno è l'inverno che frega, non è già, si deve arrivare lì. Quasi mi programmo di inverno di andarmene a Bologna e qui mi faccio l'estate, sarebbe bello, solo che ci vogliono i soldi, e chi ce li ha i soldi? A posto siamo. Vabbè, i posti di mare d'inverno sono un po' così, capito, sono un po' morti, anche Alghero, per dire, d'estate è una bomba, e d'inverno è morto come paese, dai, cittadella, come la vogliamo chiamare. Io a Bologna c'ho mia figlia. Ah, bene, io c'ho mio figlio. Io tra l'altro ci ho vissuto fino a 4 anni qua a Bologna, perché sono andato via, ero piccolino, e io ho vissuto 45 oltre anni, adesso non contarli bene, non lo so, però tieni presente che ne ho 62, sono partito che avevo 10 anni, quindi hai voglia, 10-11 anni, insomma. Chiaramente tutti gli anni sono sempre venuto in Sardegna, ho sempre fatto le serie qua, tutti gli anni, tranne qualche volta così saltato, però insomma, in linea di massima. E quindi niente, ho abbandonato Bologna per venire qui a stare fisso, però sinceramente, boh, sai, quando si è abituato l'acqua è difficile un po' di nuovo riambientarsi, poi si è andato via da piccolo, è un casino, ancora peggio. E non ha niente a che vedere col fatto che la Sardegna è bello brutta, no, è che proprio, sai, quando tu sei abituato in altri ambienti, poi è sempre faticoso, diciamo così, adattarsi. E niente, adesso mi sto annoiando effettivamente. Mentre se fosse a Bologna, sai, quando c'è mio figlio, perché qua io vivo da solo, c'è mio figlio, sai, è già diverso, è una cosa diversa sicuramente. Ma a Bologna dove è tua figlia? In centro, periferia, paesini, limitrofi, dov'è? No, no, Bologna, centro. Sì, lavora lì, mia figlia si è laureata in scienze dell'educazione, poi ha preso la specialistica lì a Bologna e adesso lavora lì e vive lì, capito? Ho capito, ma in scienze dell'educazione cosa fa? Lavora in una scuola materna, asilo, che cosa fa? Sì, insegna bambini autistici e poi ha due lavori, praticamente insegna bambini autistici e in più sta in questo istituto. In questo istituto per ragazzi madri eccetera eccetera, che sono magari devono constatare se toglierli figli perché sono persone particolari, capito? Ho capito, ma guarda, io ho praticamente degli amici e tra l'altro anche la madrina di mio figlio è una psicologa che praticamente fa, non dico che fa lo stesso lavoro, però lei, diciamo così, è un po' nella sanità di Bologna, nell'ospedale, insomma, questi posti anche di handicappati, eccetera, lei va, bene, un bel mestiere, dai, almeno, insomma, ce la fate poi stare con i giovani, i bambini, anche se handicappati, comunque da una grossissima soddisfazione, sicuramente. Sì, poi di autismo ci sono tanti livelli, capito? Ci sono bambini autistici che sono al limite, ci sono bambini autistici che sono borderline, e quindi quelli borderline fanno tutto quanto, hanno solo praticamente dei problemi di comportamentali e basta. Ecco, si è passato di motivazione però, Gianni. Mi sono abbassato, guarda, 1, 2, 3, 4. Oh yes, adesso vai meglio, prima ti stavo sentendo un po'. Beh, sai, qua io ho purtroppo QRM a manetta, e quindi è una cazzara, come si dice, no? Vabbè, un po' pazienza. Sì, comunque quelli sono lavori, guarda, io ti dico, io ho fatto un tirocinio in un asilo, in una materna, come esterno, chiaramente, premetto, non professionista. Siccome io ho lavorato molto negli alimentari e così mi avevano designato a, diciamo così, distribuire i pasti ai bambini, insomma, ai bimbi che entrano all'asilo, insomma. Ed è stata un'esperienza bellissima lavorare con dei bambini, è stata un'esperienza fantastica. Poi vabbè, c'erano anche i ragazzi, perché sì, comunque era una scuola elementare, interessante. Giovanissimi, però bello, bello, da molto, da molta soddisfazione, contrariamente a quando si lavora con i grandi, con i piccoli, è una cosa incredibile, è fantastico, sì. Capisco le persone che scelgono di fare questo lavoro, perché comunque, almeno arrivi a casa la sera che sei stanco, però sei pieno, è una bellissima cosa. vabbè, è così, insomma, dai. Poi Bologna, vabbè, al di là di questo, Bologna è una, secondo me, a livello professionale offre molto, perché comunque ci sono dei grandissimi professionisti, poi gente che comunque ha molta voglia di lavorare, e con questo non voglio dire altro, hai capito, c'è molta differenza comunque anche a livello sanitario, tantissimo. Sì, è vero, è così. Poi mia figlia dice, qua quando sei in Sardegna ovunque vai, per quanto siano ben imposti, sempre in Sardegna rimani, invece lì puoi girare, ogni tanto se ne va fuori, fa all'estero, va da tutte le parti, insomma gira, perché fanno dei programmi praticamente con questi ragazzi e li portano anche all'estero per girare, per fare, quindi anche lei, capito, gira, e a lei piace molto questo, viaggiare, fare, e poi dice ci sono tante soddisfazioni nel lavoro, capito, sono molto soddisfacenti le cose che fa. Sì, confermo, beh certo, siamo molto soddisfacenti, guarda che lavorare con i ragazzi, con i bambini, poi ci sono anche dei disabili, insomma, che hanno dei problemi autistici, eccetera, così, insomma, è anche più difficile, però ripeto, da moltissimo a livello umano, a livello proprio, diciamo così, emotivo, io veramente mi sono trovato benissimo proprio, io premetto, nessuna esperienza, io prima lavoravo con dei grandi, però mi hanno catapultato lì per un tirocinio, per non stare senza lavorare, io ho avuto un periodo un po' così, caro Gianni. Vabbè, io però ti devo lasciare e devo fare una cosa che se non la faccio io non può fare nessuno, quindi eventualmente ci sentiamo più tardi oppure un'altra volta. Non so se c'è qualcuno che sta in ascolto, magari se vuole venire fuori. Io ti saluto anche gli ascoltoni e auguro una buona serata e di nuovo per te Gianni, vai. Ciao Mario, ciao, ci sentiamo, dai. Ho percepito cosa stai per fare, comunque io non posso andare per te, hai ragione. KK, dai, io sono qua, se vuoi rientrare poi non c'è problema. Avanti se c'è qualcuno, se no spengo tutto. Ciao, buona serata, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao, ciao Mario. Chi è? Ah, io metto, se vuoi entrare, se no me ne sono grandenni. Aiuto. Gianni. Avanti, capi. Buonasera, Gianni. Sì, io ho detto, stavo, non è c'è sta radio, non c'è la batteria nel microfono. E io ho finito adesso, cioè adesso. Finito alle 7 di lavorare. Sì, me l'ho immaginato, capi. Ma stai sempre piazzando quella roba lì o altre cose? Sempre in quel settore sono, cioè. Sempre in quel settore. KK. E adesso ce n'è di concerto? No, adesso no, però noi già abbiamo anche la cosa, diciamo, nei supermercati, la fusione, dai, dei negozi, queste cose qui, sì, non è solo a fare i concerti. Ah, capito. Andare. Vabbè, fai anche trasporti, dai. Sì, sabato sì, sabato e domenica sì. Uiuia. E tu? E io sono sempre così, sto sempre aspettando che mi chiamino da quel cacchio di ospedale. Sono sempre a dolori, senza drumi. Non sto bene, capi, non sto bene in questo periodo. È proprio nero per me. È un casino, già. È un casino, anche io sono mal di schiena. Però bisogna andare avanti, perché altrimenti è un casotto. Altrimenti è un casotto, già. E avanti si va avanti, ma stenti però, perché se non dormi la notte, la mattina, cosa dormi? 2 orette la mattina. E poi stai tutto il giorno con questi dolori forti, ohia, cerchi sempre di evitare di prendere pastiglie, antidolorifici, eccetera, eccetera, perché fanno male. Però se in quanto ci riesci resisti e poi te lo devi prendere per forza perché non ce la fai più. Vabbè, sì. Niente. Oggi è stata una giornata di quelle assurde. Stanco? Io sono a pezzi, sono a pezzi già, sono a pezzi. Faccio adesso, mi entro una ventina di minuti in garage, poi ceno, Anna, perché domani è un'altra giornata di quelle impressionanti. Lo so, Gavi. Già ti capisco perché già lo sai, anche io ho fatto quel lavoro e so cosa vuol dire, dai, so cosa vuol dire. E c'era un autista che mi diceva, ciao, non li piglia 3 a 3 i bacchi, piglia 1 a 1, chi dà un fisico ti domanda un conto, mi si fa via ragione. Ogni volta che c'è dolore mi ricordo di quella frase. Ma è vero. Mio stai sempre facendo e non te ne accorgi, altrimenti il giorno quando smetti che ti riposi un pochino è un casotto. Facendo quei lavori i dolori ti vengono, poi io tiravo pedane di acqua eccetera eccetera in negozio, quindi le articolazioni ne risento. E ne risentono sì, perché poi magari ti metti a fare e c'è umidità e c'è corrente, certo, lo so, e ti pizzica la schiena. Poi lavorando in pescheria, tra l'incella, ti puoi immaginare. Io ho lavorato 4 anni qua in un coso ittico a Bordo Torres, entravo in cella d'estate da più 30 gradi, diciamo, a meno 27 nella battitore, nel tunnel. Lo so, ho capito, vabbè, purtroppo, quei lavori lì sono infernali, bisognerebbe mettersi dei giubbotti di protezione, macchinari di tempo, devi servire il cliente, ti chiede il pesce, magari l'hai finito nel banco, vai a prenderlo in cella, cosa fai? Metti 20 giubbotti e cosa fa aspettare 3 ore? Sì, esatto, perché poi non è che hai fatto solo il giubbotto, è il fatto che ti prende anche al naso, se sei entrato lo sa cosa vuol dire, ti prende anche al naso. E ti fa venire a sinusite, ti fa... un mio collega poi oltre a quello è strampato perché è sempre scheria, sempre bagnato, sempre cose, è caduto, si è rotto 2 costole ed è rimasto in malattia, roba di una ventina di giorni. E finché puoi fare la malattia è buono, e quando non lo puoi fare, che se per conto tuo e se ne vai, se ne zappi, nai, se non ne zappi ciccia. Eccolo già è vero, lo so. Purtroppo tutti i lavori hanno i pro e i contro, capisci? Cosa devi fare? Per forza devi lavorare, se vuoi campare e vuoi portare avanti la famiglia devi fare quello che hai. È positivo. Stanno state entrando la notte già. No, io non c'entro mai la notte. Non entro mai perché mi guardo il televisore, capito? Ho capito, ho capito. Ieri notte ho provato a dare un paio di colpi di macchina, non c'era nessuno. Qualche volta già entrano, un periodo entravamo, ma era più assiduo, capito? tutte le notti si entrava, poi vabbè hanno mollato un po', io non ci sono più entrato, mi guardo il televisore perché mi sdraio, capito? Tu capisci a me, ho la gamba che mi fa male, non è che ne abbia molta voglia, mi sdraio, mi guardo il televisore, un po' che passa il tempo mi distraggo un po', capito? Ho capito, sì. E vabbè, già, piano piano. Poi aspetta che devo controllare questi due assassini un attimino, che di notte cambiano umore. Così, diventano più cattivi. Sì, c'è il fattore pomese che fa paura la notte. La notte diventa un assassino, te lo cerco quello. Ma sono liberi, capito? Sì. Ma in campagna ci vogliono, poi quella zona lì dice che rubano un bel, che rubano frutta, mi ha detto questo amico che ci ha venduto la campagna perché come faceva, piantava il giorno prima le piantine, il giorno dopo tornava per innaffiare e non ve la ripiglia. È positivo. Cioè oggi ho prezzato il capo, la Camille, cioè 5,80€, 50€. Caspita, cioè 5,80€ al metro. Io ho l'H100, però ho fatto un affare, questo qui ci aveva comprato tutto, aveva comprato 100 metri di H100, e poi ci aveva comprato antenna, baracchino, questo e quell'altro, poi non ha piazzato nulla perché dove abitava c'è una spiovenza e bisogna essere scimmie per fare quel lavoro lì, e nemmeno pure, non ve la vai perché spiovente, il tetto è liscio, e quindi si è venduto tutto e in 3 amici ci siamo divisi il cavo, abbiamo preso un po' di metri per uno e ci siamo praticamente quotati il tank per uno e ci è venuta una fesseria proprio. E niente, uno si è comprato anche l'antenna e niente. Abbiamo comprato tutto noi, là. Cioè 20 metri di cavo, 22 metri di cavo, 100 euro. 100, di più di 100 euro, beh. Poi Gavello ci è venuto, qua ci abbiamo diviso in 3, 20 euro a testa, mi pare. Una cazzata, lui l'aveva pagato molto di più, ma per tenerselo fuori dalle scatole. Ce l'ha venduto la matassa proprio completa intera, ci ha venduto. È positivo. Io ho preso l'RG8, ho preso quello grosso. No, è troppo detta, Luis, non mi piace. Allora, quello che c'ho io, l'H100, è appena più grosso, ma poco, di poco dell'RG58, ma c'ha delle prestazioni molto più alte dell'RG58, capito? Ha delle grosse prestazioni e va molto bene, per la 27 va benissimo. Sì, ma l'aveva preso da internet lui sicuramente. Sì, l'ha preso da internet, infatti pochi metri non li vendevano, ne ha dovuto comprare una matassa da 100. Ho capito. Io dovrò comprare quello lì da... Dai, il lato voglio cambiare perché la Camilla è performante. Sì, ma anche l'accaccetto fa molto bene, io mi trovo molto bene con questo, non c'ha perdita, capito? Ho capito, ho capito. Però io da internet sono restio a comprare, caspita, no. Gavi, a me mi hanno furato 200 euro, non ti guasto. È un casino, no. Comprare da internet è un problema, perché mi danno un problema. Conservo i soldi e me lo, perché me lo voglio cambiare il cavo, perché è anche un po' usato, capito? E lo voglio un po' più lungo perché devo cambiare la postazione e quindi me ne servono 22.000. E dove ti vuoi mettere? Dentro casa adesso? No, mi voglio fare una specie di cammina qua in garage, una specie di cammina. Ah, ho capito, dai, per essere più riservato. E positivo, con Giulia. Però è una caspita, tanti soldi sono, cioè per il capo sono tanti soldi. Quello che ho preso io rimane grigio, siccome il mio palazzo è grigio, l'ho preso apposta per quello, perché non volevo che si notasse molto, l'ho attaccato a fluviale, di modo che la discesa va tutta dietro il fluviale, non si vede nulla, è grigio, e così almeno non stanno a fare storie, capito, col capo nero. Ma ho capito perché la gente fa storie, ma cosa gli va? Non gli comporta nulla, io non ho capito questo discorso delle storie, della maniera. Fanno storie perché dicono che deturpa la, a parte che era dalla parte di dietro, non in facciata il mio, però dicono che deturpa il palazzo, che questo e quell'altro, lasciami lì. Vabbè, comunque per toglierli sempre queste storie qua, io ho fatto così, me l'ho fascettato attorno al pluviale dietro ed è grigio, anche se si vede non si vede nulla perché è grigio, quindi è come il colore del palazzo, il pluviale è colorato del colore del palazzo, quindi non si vede nulla. Meno male che non sono fatto pure per metterti l'antenna sopra il tetto, meno male non ti hanno mai fatto pure per quello. Gavi, lascia Bigi, non mi hanno fatto storie. Allora, io ho telefonato il capo condominio che è esterno e gli ho detto che mi serviva la chiave del tetto perché dovevo piazzare un'antenna. E lui mi ha detto di che antenna si tratta. E io gliel'ho detto che antenna si trattava. E lui mi ha detto no, assolutamente no, perché quelle antenne disturbano i televisori, non voglio problemi, questo e quell'altro. E gli ho detto no, lei me la deve dare la chiave, perché? E chi lo dice questo, mi ha detto. Chi lo dice? Allora sono andato all'Escopost e mi ha detto che praticamente avevano l'obbligo di farmela piazzare, se c'era un problema di chiamare a loro. L'ho ritelefonato e lui mi ha detto faccia una cosa, si faccia mettere, faccia uno scritto scrivendo che lei deve installare questa antenna e che si prende tutte le responsabilità se in caso dovesse disturbare, e fa mettere le firme a tutti i condomini, se non ci sono tutte le firme io non gliela faccio piazzare. Capito cosa ha detto? Invece meno male mi hanno firmato tutto, uno ha messo l'asterisco e ha scritto sempre che non disturbi, e però la chiave ce l'aveva sempre lui, stava tardando a darmi. Allora sai cosa ho fatto? Siccome quello dell'ultimo piano c'aveva la chiave del tetto, sono andato dalla moglie, perché lui era un po' bastardino, la moglie invece la pingava, sono andato alla moglie e ti ascolta, mi serve la chiave un secondo perché vedo male il televisore, devo controllare l'antenna. Sono andato e mi sono fatto il doppione, mi sono piazzato tutta la giura, la grande era piazzata, la rivista. E hai fatto bene, hai fatto bene. Cioè, stiamo scherzando. No, non esiste, che problemi gli dà? Se loro, cioè, se non disturba, cioè, la visuale, va a chi lo baratto, su due. A parte che io sono proprietario, una parte a me del tetto mi spetta per legge. Ma tu devi vedere quando la stavo piazzando, la gente che è salita su a guardare, a rompere le scatole. E Claudio già lo sa perché eravamo insieme, la stavamo mettendo insieme, con Claudio, con Antalino e con Luca Flipper l'abbiamo piazzato. Uno addirittura me ne ha fatto tenere un tassello perché praticamente io ho messo i tasselli esterni per i tiranti, no? E mi ha fatto togliere un tassello perché ha detto che lui la doveva vendere la casa e se quello là doveva farsi una veranda non ci doveva essere il tassello, ma era proprio in cima, non era, non, disturbava niente. Allora sai cosa ho fatto? C'era l'antenna del televisore, ho attaccato un tirante, l'ho attaccato a, diciamo, alla staffa dell'antenna del televisore, che di quelle staffe grosse grosse, in ferro grosso, l'ho attaccato lì, uno invece che attaccarlo al muro, ed è più corto, ma comunque non mi interessa, ne ho 9 tiranti. Sì. Guarda, è l'ignoranza, è l'ignoranza. Non c'è storia. E vabbè, gente infelice, io a me mi capita a volte di fare qualche viaggetto di qualche cosa da qualche casa, non vogliono che si usi l'ascensore, sì, ma se noi saliamo, se l'ascensore porta 4 persone, io sto mettendo una lavatrice, no? Che sono solo, col carrellino, che problemi là? Oh no, non voglio. E allora Farad di la Bilidu, non ho capito, è come una grandissima stronza che ce l'ha portato Torres, che praticamente in via delle Vigne c'era un viale lungo lungo per entrare in un palazzo, bastava che lei aprisse il cancello e quando dovevo fare la consegna che aprisse il cancello io entravo dentro col furgone, arrivavo sino al portone e scaricavo, invece mi faceva fare, non apriva il cancello e apriva quello piccolo, e praticamente mi faceva fare roba di 2 chilometri col carrellino spingendo con tutta la merce sopra, capito? E un giorno l'ho detto alla fila se me l'apriva, la fila me l'ha aperto, oh, lo sai cosa ha fatto questa? È andato dal direttore, ha parlato col direttore, prima con la capocommessa, poi l'ha detto al direttore che ero molto comodo, che questo e quell'altro, sai che mi hanno chiamato in ufficio per dirmi di trattarla bene perché era una che praticamente frequentava, come si chiama, dove vanno tutti i ricconi a ballare, il Rotary Club. Poi dentro di ragioni, già in giro c'è gente, sono mostri, io li definisco mostri, ci sono tanti mostri in giro. Perché non hanno niente, non hanno, cioè, è gente che non c'ha passione, che non c'ha, capito? Scusando la parola, è gente di merda. Ma già gliel'ho fatta bella, capì? Quella lì gliel'ho fatta bella. Una di sono andata a Milano in cartone, i bambolini di Pisa, vera, le due catalane, vi raggiungo la di Trento. E pure a che sui, pure a più buio. Adesso questa qui è morta, ma pace all'anima sua, ma era cattiva come Dio l'ha fatta. Già la conosci, non fa dirlo qua, ma già la conosci. Aveva un negozio a Porto Torres. No, io la penso che quando uno è pezzo di merda la vivo, è pezzo di merda anche la morto. Sì, questa qua si era ammalata di tumore, no? E un giorno mi sono permesso di prendermi, diciamo, la confidenza di chiedergli come stava. Io me l'avessi fatto, lo sai cosa mi ha detto? E cosa vuole? Che stia male ancora? Sono stata abbastanza male, non gli basta che sono stata male. Io ho detto, per carità, già la giovata lo manda via. No, io. E vabbè, purtroppo. Cosa vuoi dire già? Vabbè. Io vado a cenare perché è pronto, ho fame e poi mi guardo dritto al rovescio. Vabbè dai, non c'è problema. Stasera proprio poca gente, sei entrato tu e Mario di Porto Torres, boh, basta, non è entrato nessun altro. E magari stanno lavorando e dico magari Eugenio sta lavorando, voi gli altri io non so che cosa faccio. Magari col figlio e io quando mi ho detto mi ho fatto la luce, ho detto beh adesso me ne entro un po', 20 minuti un po' ti slaghi, dai. E infatti vai tranquillo Gavi, dai, adesso spengo anch'io e vado a preparare da mangiare al cane perché io glielo cucino e poi ci guardiamo un po' di televisore, ceniamo e ci guardiamo un po' di televisore secondo cosa c'è, perché mi pare giovedì è proprio buca roba. No, io guardo dritto e rovescio, mi guardo la politica tutte le sere mi guardo la politica, poi magari quando mi scucciano me ne vengo in garage, mi faccio qualche cosa, ti piace. Dai, per non stare tanto la bambina, sicurezza presa. La compagna sicurezza presa, con la bambina, quindi cosa vuoi? Tu la rinnovi il cucato? No, non è da un garage, qua mi con il cane, sto qua, mi gioco, bacio. E fai bene, io lo stesso, ma io non sai cosa faccio, mi è venuto adesso, sono diventato macabro, di notte mi guardo su internet, ci sono quelli che vanno in caccia di fantasmi nelle case vecchie, diroccate e cose, allora canto mi imporra chissà cosa, mi fa venire lo zuzzo, me lo guardo poi. Così. E no, anche a me già piace quel programma lì. Anch'io me lo guardo. Però sono mezzo bugiardini. Sono mezzo bugiardini, però già me lo guardo pure io. No, io ho visto proprio praticamente le ombre, hanno fatto muovere, gli ha detto se ci sei fai muovere questa apparecchiatura che si chiama il K, fai muovere il K, che l'ha fatto cadere in terra addirittura, uia. Dopo mi sono spaventato un bel quando loro stavano entrando in questo andito, c'era una finestra, di colpo ne è caduta la finestra, gli ha sbarrato la strada. E con la strada sbarrata loro sono stati obbligati a scendere nelle scale. Nelle scale c'era un pupazzo, perché questo qui era un orfano truffio. All'entrata c'era questo seggiolone. E praticamente si parla che c'era il fantasma di questo bambino. L'ha praticamente portato in queste scale e c'era un pupazzo di peluche nelle scale. Lui gli ha detto che cosa vuoi il pupazzo? E lui ha detto sì. E l'ha dovuto portare indietro e l'ha messo sul seggiolone. E allora ha cominciato a dare segni, capito? Quando gliel'ha portato ha cominciato a dare segni. Non lo so queste cose qua, se queste cose, se credersi a questo programma qua, sì, e ti fa venire tutto, però sono cose strane. E dico sempre io, meglio certe cose lasciarle dove sono. Mamma diceva così, diceva sempre, i morti lasciateli in pace, che non vi stanno facendo nulla. Non svegliate il can che dorme, così diceva mamma. Esatto. Non bisogna cercare, chi non ti cerca non lo devi cercare. Queste cose bisogna prendere e fare finta che non esistano, cioè bisogna non lasciare le cose come stanno, usi. Non ti cerca, capito? Non ti cerca. Addirittura io ho già visto niente che quando ho visto a volte si apre la porta da sola a casa col vento. Svegliare, prendere, vai, zappura, capito? Andiamo via, ragazzi, se mandi, mandami il giro. Mamma mia, io non ci abituerei mai in certe case così, sinceramente. No, io lo guardo su internet, c'è questo gruppo di ragazzi che sta tutta la notte in queste case diroccate, dove è morta gente, praticamente in questi orfanotrofi, eccetera, eccetera, ville che sono enormi, capisci, se ne vedi belle, addirittura ci sono ancora quadri, ci sono giornali che hanno trovato del 1815 eccetera eccetera, hanno trovato un sacco di roba, libri, armadi, poltrone, di tutto c'è, cioè, addirittura ci sono stati, dice, anche dei furti, perché hanno rubato delle poltrone bellissime che c'erano, antiche, che c'erano prima, poi non le hanno più trovate perché sono tornati diverse volte questi, ma cioè a me mi imporra un bel, perché di notte ti biglia, siccome non riesco a dormire la notte, se non mi stanco un po' guardando queste cose non riesco a dormire. E già sono belle, però ripeto, e se vieni qua a casa in campagna da me, qua tutto buio, tutto coso, guai. Vabbè, io stesso abito qua, io giro da solo qua in campagna, no, da controllare, a fare, no. Dai, è tutto tranquillo, no? Certe cose bisogna anche prendere e ignorarle. Ah beh, certo. E vabbè, ma ci sono a volte che si presentano da sole senza che tu le cerchi, certe presenze demoniache. Poi c'è una cosa, ci sono quelli che sono bravi, ci sono anche i cattivi, capito? Non ci sono solo quelli bravi fantasmi, ci sono anche quelli cattivi di spirito. Ehi, dai, basta pure. Quando ne farà da Lubacone per giù tu un sud e si addrizza di ribelle. No, quando la prova, quando si prova una sola, vai da fuori. Allora, va bene già, dai, e ci sentiamo, dai, mi ha fatto piacere, buona serata e buona cena. Ciao, altrettanto Gavi, stammi bene, ciao ciao, a domani. Ciao, ciao. Avanti se c'è qualcuno.